Lettera agli Efesini, episodio 2. Un piano meraviglioso. Leggo nella Bibbia in Efesini capitolo 1, versi 4 a 10. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia, che ci ha concessa nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. Se pensi che Gesù sia il piano B di Dio per salvare l'uomo, dovrai cambiare idea leggendo questi versi. Questi versi bellissimi hanno infatti un posto unico nella Bibbia, per la loro capacità di evidenziare quanto sia meraviglioso il piano di Dio. Essi evidenziano il disegno benevolo di Dio, un disegno pieno di amore per salvare l'umanità, e questo disegno non viene presentato come una reazione al peccato dell'uomo, un piano B appunto, ma come un piano ben definito addirittura prima della creazione del mondo. Non è straordinario il fatto che Dio avesse un piano meraviglioso per la salvezza degli esseri umani già prima della loro esistenza? Non è straordinario che questo piano fosse incentrato sul Messia, il re promesso ad un popolo specifico, Israele, con l'obiettivo di raggiungere tutta l'umanità? Paolo non può fare altro che benedire Dio nel considerare questo piano meraviglioso che ha Gesù come unico grande protagonista. Infatti è in Lui, in Gesù il Messia, ovvero il Cristo, che Egli ci ha eletti, cioè scelti. Già prima della creazione del mondo, Dio aveva stabilito che gli esseri umani sarebbero stati scelti per appartenergli solo attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo. Non ci sarebbero stati piani alternativi. È in Lui, in Gesù Cristo, che Egli ha scelto lo stesso Israele per essere il popolo attraverso il quale Gesù si sarebbe inserito nella storia dell'uomo. Solo in Lui, in Gesù il Messia, anche degli esseri imperfetti come noi, possono presentarsi davanti a Dio come santi e irreprensibili. Gesù Cristo ha infatti pagato per i nostri peccati e ci ha permesso di appartenergli e di essere visti come giusti agli occhi di Dio. Perché giusto è colui che ha dato la sua vita al nostro posto. Il disegno benevolo di Dio prevedeva che Egli mostrasse la sua grazia verso di noi e che noi potessimo essere adottati come suoi figli per essere all'ode della gloria della sua grazia, ovvero per esaltare la persona di Dio e le sue caratteristiche, tra cui spicca in maniera particolare la sua grazia. Nel suo grande amore per l'umanità, Egli aveva già stabilito che la destinazione finale del cammino spirituale degli esseri umani sarebbe stata quella di essere adottati come figli di Dio attraverso la persona e l'opera di Gesù Cristo. In tal senso Egli ci ha predestinati ad ottenere tali benefici per mezzo del suo amato Figlio, Gesù Cristo. Sì, ancora una volta è in Lui, in Gesù, che tutto questo può avvenire. Non ci sarebbero stati altri criteri di scelta da parte di Dio, perché solo in Lui sarebbero stati scelti, ovvero eletti, i figli di Dio, come Gesù avrebbe poi confermato. Io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, come leggiamo in Giovanni 14:6. E solo in Lui, in Gesù, il Messia, che siamo stati redenti, ovvero Egli ha pagato affinché fossimo liberati dalle conseguenze del peccato, dalla condanna che pendeva sulle nostre teste. È solo in Gesù, infatti, che Dio nella sua grazia ci perdona dei nostri peccati, perché è Lui che ha pagato per la nostra liberazione con il suo sangue, ovvero donando la sua vita sulla croce al nostro posto. Paolo sapeva che Dio aveva riversato la sua grazia abbondantemente sul popolo di Israele attraverso Gesù il Messia Re che era stato loro promesso. Egli sapeva anche che Dio aveva donato, in particolare a lui, Paolo, e agli altri apostoli, tutta la sapienza e l'intelligenza necessarie per comprendere a fondo il disegno benevolo di Dio, il mistero della volontà divina concepito prima che il mondo fosse, ma manifestato pienamente al tempo opportuno, al momento giusto. Paolo aveva quindi compreso molto bene che il piano di Dio andava ben oltre i confini di Israele. Aveva capito chiaramente cosa intendeva il profeta Isaia quando si era riferito al Messia dicendo: «È troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza, fino all'estremità della terra». Isaia capitolo 49, versetto 6. Ci rendiamo conto della grandezza del piano meraviglioso di Dio? Esso prevedeva che Gesù fosse il protagonista della salvezza dell'umanità e prevedeva che a partire da un piccolo popolo come quello di Israele la salvezza si estendesse a tutti i popoli della terra. Lo scopo di Dio è infatti quello di raccogliere sotto un solo capo, in Gesù il Messia, non solo Israele, non solo ogni essere umano, non solo ogni cosa che appartenga a questa terra, non solo ogni cosa visibile ai nostri occhi, ma anche ogni cosa che appartenga al cielo, compreso ogni essere spirituale che noi non possiamo vedere. Il piano di Dio prevede, insomma, che Gesù il Messia sia il Re incontrastato su ogni cosa, in qualunque dimensione si trovi, visibile e invisibile. Esiste un solo Dio, creatore di tutti gli uomini, che vuole relazionarsi anche con te. Egli ha un piano meraviglioso e lo ha realizzato in Gesù il Cristo. Sei pronto a lasciare che questo grande Dio ti inondi con la sua grazia, ti adotti come un suo figlio e ti renda partecipe della vita eterna in Gesù?